l'altra Europa. Europa, a ognuno la sua parte. Benvenuti a questo evento live dal Festival della Partecipazione. Un evento live è una puntata particolare oggi dell'altra Europa. Perché? Perché tanti ospiti, tante voci, dove la parola partecipazione sarà al centro. Vi presento le persone che saranno con noi, alcune delle persone che saranno con noi, altre poi sono in mezzo al pubblico e le scopriremo nel corso della puntata. Do il benvenuto a Evelina Jelenkowska, che è capo del settore stampa e media presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, ben ritrovata. Silvia Strada, ufficio comunicazione e relazioni esterne, Agenzia Nazionale Giovani. Ciao Silvia. Elettra Ceglie, membro di Aquilasmus, ESN L'Aquila, poi scopriremo che cos'è. Maurizio Oliviero, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia, ma soprattutto il primo italiano ad aver fatto l'Erasmus. Eccolo qua, ciao e benvenuto. Poi il dottor Carlo Bucci, primo ricercatore laboratori nazionali del Gran Sasso. L'abbiamo prelevato dai laboratori che sono qui a pochi chilometri, abbiamo aperto questa grande porta che c'è ed eccolo qua con noi, andremo a scoprire quanta Europa c'è nella ricerca. E poi, visto che è un evento live, anche la musica dal vivo, con noi un cantautore di Pescara, però gioca in casa. Diamo il benvenuto a Domenico Imperato e alla sua chitarra. Difendendo dal tempo, rimontavo ad umore, con il sole e col vento, gli diceva mio amore. Ma se veniva giù pioggia, lei si chiudeva a chioccia, non voleva carezze, le sue mani schivava. E poi gioca all'attrice, con gli occhi divora, sempre al centro di tutto, con il suo fiore rosso, papavero colto. Campo danzando, a lui resta soltanto il privilegio di un ballo. Gira il suo corpo, gira la donna, gira e tutto è ancora a tempo. Gira e danza e gira. Domenico Imperato con Gira. Beh, oggi, anche se in un altro senso, parleremo molto di girare, parleremo molto di mobilità, parleremo molto di Europa da vivere da protagonisti attraverso le varie forme, per esempio, di Erasmus. Partecipazione come parola chiave, e l'attualità ci chiede però una parentesi per quello che succede in questi giorni. Evelina, partecipazione significa giocare da protagonisti la propria parte, partecipazione significa esserci quando c'è bisogno anche. L'Europa che stiamo scoprendo in questi giorni invece è un'Europa che si tira indietro nel momento del bisogno. Sto pensando all'immigrazione, sto pensando alla reazione che abbiamo visto appunto degli stati membri, dove la scelta sembra quella di non partecipare. È questa l'Europa oggi? Ma innanzitutto hai fatto bene a fare un po' la differenza tra gli stati membri e l'Europa, non perché gli stati membri non sono l'Europa, ma perché appunto quello che ci manca oggi e che ci manca da un po' con questa crisi migratoria che stiamo vivendo è la solidarietà degli altri stati membri. Detto molto generalmente, nel senso che le generalizzazioni sono sempre un po' ingiuste, quello che ci manca è un po' appunto comprensione dell'altro, penso. Quindi a livello, si parte da livello di noi persone che partecipiamo, molto spesso quello che vediamo, l'Italia vive la crisi che sta gestendo con una grandissima dignità e con una enorme partecipazione, ci vorrebbe più partecipazione anche degli altri stati membri, alcuni partecipano, altri partecipano di meno, perché l'Europa è un po' come un condominio, se vogliamo, cioè ogni Stato membro ha una sua posizione molto particolare per se stessa, quindi diciamo è un po' come chi abita nell'ultimo piano è più interessato nell'ascensore che non nella porta che scricchiola. Quindi quello che c'è, è vero che ci sono le responsabilità dell'amministratore che deve un attimo cercare di gestire, che è quello che sta cercando di fare la Commissione europea mettendo sul tavolo delle proposte. Ovviamente se poi dopo non c'è la volontà di collaborare bisogna cercare di trovarla. E io penso che al di là delle grandi questioni politiche che poi sono quelle, noi dobbiamo iniziare proprio da qui, da dove iniziamo oggi, cioè non dico da Aquila, ma dalle persone, dall'insegnarle che cosa vuol dire solidari, e lì si inizia da capire l'altro, perché penso che ci sia tantissima paura dietro al fenomeno migratorio e anche la resistenza degli altri stati membri, diciamo, ci sono delle società che hanno semplicemente paura dell'incognita, dell'altro, e quindi penso che l'educazione, penso che per esempio il corpo di solidarietà, del quale spero parleremo durante la puntata, sono quei tentativi di iniziare dalle persone e spiegare che cosa è la solidarietà, insegnarci o reinsegnarci noi come persone, che poi arriverà anche a livello degli stati. Andremo a scoprire cosa significa per la Commissione partecipare, però adesso viaggiamo un po' nel tempo. Maurizio, tu avevi paura quando 30 anni fa sei partito per il tuo Erasmus? Come andò? Ma ora, il fatto che tu ricordi ogni tanto che sono stato il primo italiano, pensando che quest'anno festeggiamo i 30 anni dell'Erasmus, questa cosa non è un bel regalo che mi fai tutte le volte, però via. Non avevo paura. Devo dire, ero curioso. Ero curioso perché quello che posso riscontrare rispetto a quello che diceva Evelina adesso è che 30 anni fa noi guardavamo all'Europa come una grande dimensione in termini di curiosità. È un'esperienza nata per caso, perché avevo terminato gli studi ma non potevo ancora laurearmi e quindi avevo bisogno di impegnare il mio tempo per scrivere la tesi di laurea. E allora trovo un avviso nei corridoi dell'università, della mia facoltà, dove c'era un'opportunità offerta dai giovani che volevano, se avessero voluto, che era quella di essere dei free movers. A precedere i programmi Erasmus, quindi poi Socrates, c'erano i free movers, cioè dei giovani che dovevano cercare una propria sede universitaria, proporre un progetto, farsi ospitare dall'università, presentare il progetto in sede europea e poi avere la possibilità di andare a fare questa esperienza. Ovviamente non avevamo internet, non avevamo i telefoni. E l'unico modo per me per cercare un contatto all'estero era quello di andare in biblioteca e provare a consultare dei libri scritti in lingua diversa dall'italiano. E lì in fondo magari c'era qualche pubblicazione di qualche università straniera, io la trascrivevo a mano, chiedevo cortesemente alla segreteria della mia facoltà se potevo mandare un fax. Io non so se esistono ancora i fax, ma il fax era una macchina diabolica dove tu infilavi un foglio che poi non si sa con quali strumenti arrivava dall'altra parte, all'altro capo del telefono. E dopo un mese mi risponde la segreteria dell'Università di Alicante. La commissione, l'Unione approva il progetto, io parto con un treno e arrivo dopo circa un giorno di viaggio alle 11.40, 23.40 di sera alla stazione di Alicante. E adesso cosa faccio? E lì è cominciato forse la più bella esperienza della mia vita. Guarda, concludo, penso spessissimo a quella bellissima poesia di Cavafis quando dice: devi augurarti che il viaggio, che la strada del tuo viaggio sia lunga. Io credo che nel viaggio della mia vita è stata l'esperienza più fertile per avventure ed esperienza. E oggi forse sono qui, soprattutto grazie a questa esperienza. Questa è l'Altra Europa Live, ora ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua dal Festival della Partecipazione. L'Altra Europa. L'Altra Europa, oggi puntata speciale dal Festival della Partecipazione e stiamo parlando appunto di Europa, a ognuno la sua parte. Elettra Celli, ricordiamo che cos'è ESN? ESN è un'associazione di volontariato, io faccio parte di Aquilasmus che è una delle 49 sezioni in Italia. Siamo tutti volontari, aiutiamo gli Erasmus a partire, aiutiamo gli Erasmus, quelli che arrivano nel nostro paese, valorizziamo le nostre città, cerchiamo di farli divertire, di far conoscere la nostra cultura. E io sono entrata un anno fa in associazione e devo dire che Continua ogni volta a stupirmi e il mio Erasmus continua anche in Italia, quindi. Cosa significa per te partecipare? Partecipare significa mettersi in gioco, non nascondere il fatto che esistano delle diversità, non siamo tutti uguali, non siamo, molto spesso gira questo slogan pubblicitario, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, è vero, però le differenze non vanno semplicemente accentuate, esistono, sono belle, possono far parte del nostro quotidiano e noi con le nostre cene internazionali, con le nostre uscite cerchiamo di far conoscere la nostra diversità, perché anche noi siamo diversi agli occhi di chi ci viene a trovare. Ma gli studenti, le studentesse vengono ancora a fare l'Erasmus all'Aquila o c'è paura? C'è paura, sì, ovviamente. Quando arrivi in un paese straniero e per di più a questa situazione di crisi, del terremoto, ancora presente nelle nostre strade, sicuramente l'Erasmus arriva con tante paure. Però noi cerchiamo di farlo sentire a casa e adesso che è luglio e si ritrovano che stanno partendo, sono tutti tristissimi e piangono, disperati. Quindi penso che in parte ci siamo riusciti. Prima ho visto una strana mappa che girava, eh? Allora tu stai facendo Erasmus qua, vero? Esatto. Da dove vieni? Di Vienna, d'Austria. Come ti chiami? Il mio intero nome è Dmitry Alexander, ma preferisco Ale, il mio versione italiana del mio nome. Va bene, lo facciamo nostro. Tu sei qui per realizzare la tesi di laurea e c'è proprio la città dell'Aquila al centro. Esatto, esatto. All'inizio era l'idea di fare delle analisi geospaziali, dove sono andati tutti e attività commerciali dopo il sisma di 2009, dove sono adesso i negozi che erano prima del centro storico. E poi ho scoperto che all'inizio manca una mappa digitale giusta della città, perché tutte le mappe che si trovano online non sono giuste, mancano dettagli, mancano strade, edifici e naturalmente tutte le attività commerciali non sono attuali. E ci ho detto, prima delle analisi, devo fare una mappa. E adesso faccio solo per il centro storico, ma è un inizio. E poi su base di questo fondamento della mappa posso fare analisi e poi anche un sito web per le informazioni per la gente dell'Aquila. E che città stai scoprendo? Per dire la verità, all'inizio ero un po' scioccato perché ho pensato mamma mia, il Pompei delle Abruzze dove sono arrivato, ma adesso l'Aquila mi fa molti regali, è una città incredibile e bella. E perché sto facendo la mappa? Un forte rapporto adesso con il centro storico, perché cammino quasi ogni via per prendere tutti i dettagli, come si chiamano le chiese, palazzi, dove sono le attività commerciali, sono gli uffici, tutti questi punti di interesse. Cioè, per me è una città incredibile e bella. E anche dalla storia, la storia mi affascina, che era distrutta tante volte e ogni volta gli aquilani hanno ricostruito, hanno rinato questa città. E questo mi affascina molto. Grazie. Domenico, anche a te l'Erasmus ha cambiato la vita, vero? Sì, decisamente. Perché io ho fatto l'Erasmus a Lisbona nel 2004-2005 e poi il portoghese è diventata la mia seconda lingua. Perché poi ho passato un anno a Lisbona in Erasmus, ho finito gli esami lì. Però proprio a Lisbona già suonavo, ho iniziato a suonare sempre di più. Lì è stato proprio perché prima di Lisbona stavo a Roma, vivevo a Roma e studiavo scienza comunicazione e anche musica. E mi ero iniziato a appassionare la musica brasiliana, alcune sonorità, e lì ho imparato la lingua. E poi è successo che tornato a Roma ho un professore abbastanza folle, io volevo tornare a Lisbona e lui invece mi ha mandato in Brasile e sono rimasto 2 anni e mezzo in Brasile. Lì ti sei fidanzato perché sappiamo sì. Che appunto l'Erasmus ha anche questa declinazione, no? Che l'Erasmus plus plus direi quando c'è il fidanzamento e da tutto questo insomma è nata il tuo amore per il portoghese che hai trasformato anche in musica. Sì, nelle mie canzoni principalmente canto in italiano perché, però ho anche uno spettacolo parallelo oltre ai miei brani che porto ancora in giro di musica brasiliana ma anche altre cose lusofone, no? In lingua portoghese. Però poi è successo proprio che il primo disco mio di brani in italiano, tranne uno, in portoghese l'ho registrato proprio a San Paolo in Brasile poi perché è successa questa, ho conosciuto un gruppo di musicisti con cui andavo molto d'accordo e ci fai ascoltare qualcosa? Adesso vi faccio ascoltare questa canzone che è una poesia portoghese dal titolo Lua Nova di Rogerio Noia da Cruz, che io ho musicato e che è nel primo disco. Grazie a Domenico Imperato. Silvia Strada, Agenzia Nazionale Giovani, ricordiamo che cos'è l'agenzia e che rapporto ha con l'Europa. Allora, l'Agenzia Nazionale per i Giovani è un'istituzione governativa che gestisce in Italia un programma europeo di mobilità giovanile, Erasmus+. Chiaramente voi conoscete il noto Erasmus, di cui insomma abbiamo avuto delle testimonianze dirette. L'agenzia gestisce una parte che è quella dedicata ai giovani, quindi il capitolo gioventù. Quindi per noi il nostro target di riferimento non sono solo gli studenti, ma i giovani in quanto tali, quindi tra i 13 e i 30 anni. E diamo la possibilità attraverso Erasmus+, che è un programma appunto europeo, di fare esperienze di mobilità in Europa a tutti i giovani, a prescindere dal background sociale. Quindi questa è una grandissima opportunità che nasce proprio grazie all'Europa. Senza di questa non ci sarebbe la possibilità di fare scambi di giovani, servizio di volontariato europeo o progetti di partecipazione di cittadinanza attiva che coinvolgono le fasce dei giovanissimi. Quindi noi abbiamo un grandissimo rapporto con l'Europa, perché grazie a questa non solo esiste l'agenzia, ma esistono tante opportunità per i giovani, e occasioni come questa danno la possibilità di metterle in luce, al pari di programmi come l'Erasmus, che avendoci uniti insieme questo più ci dà l'occasione a noi in realtà di presentarci, perché il brand è forte, richiama un programma molto importante, ma noi da qui abbiamo avuto grandi opportunità di allargare anche insomma il nostro target di riferimento. Ma ci puoi fare qualche esempio pratico? Cioè un giovane che appunto vuole partecipare, vuole provare, vuole sperimentare, cioè, quali sono le possibilità concrete che ha? E anche dove deve suonare, dove deve bussare, a chi si deve rivolgere? Allora, sostanzialmente il programma ha diverse azioni, che è quella appunto la principale, quella della mobilità degli individui. Ci tengo a precisare che l'Erasmus Plus è un programma in realtà per tutti, no? Quindi anche dai giovanissimi, anche gli adulti. Quindi io è chiaro che il mio target è quello dei giovani, però è opportuno dare informazioni sicuramente complete, quindi tutti possono fare esperienze di mobilità, perché è un programma di apprendimento permanente. E quindi il giovane che decide di mettersi in gioco, perché poi in realtà è anche quello, e quindi di fare un'esperienza che ti porta a vivere anche dai 2 ai 12 mesi all'estero ed impegnarti attivamente in un progetto di partecipazione e di cittadinanza attiva, ha la possibilità innanzitutto di collegarsi sul sito dell'agenzia, agenziagiovani.it, dove ci sono tutte le informazioni relative agli scambi di giovani, volontariato europeo o dialogo strutturato. La cosa è che per chi vuole fare un'esperienza di mobilità, quindi in modo individuale, dovrà partire, fare questa esperienza con una delle associazioni accreditate presso l'agenzia. Quindi in realtà non partono direttamente tramite noi, ma tramite associazioni che hanno seguito un iter di accreditamento, quindi sono certificate dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Quindi il passaggio è quello. L'altro passaggio, per chi volesse fare uno scambio di giovani, ed è qui secondo me la vera inclusività del programma, è che basta un gruppo informale di giovani che non sia studente costituito in associazione, quindi bastano 4 amici che abbiano voglia di realizzare un progetto di scambio, di confronto con giovani di altri paesi, possono prendere contatti con l'agenzia, quindi applicare, quindi seguendo un iter che non sto qui a spiegare perché sennò diventerebbe una lezione sulla progettazione europea, però iniziare da lì per metterci in gioco anche per acquisire competenze in questo ambito di progettazione europea. Prima Evelina citava il Corpo Europeo di Solidarietà, giusto? Che non ha una forza, una nuova forza armata. No, che ha un nome importante. Un nome importante per una cosa altrettanto importante, se posso insomma spendere due parole, perché in realtà si è parlato appunto dello spirito, no, di solidarietà, e in realtà questo corpo è una nuova opportunità messa a disposizione dalla Commissione Europea, lanciata di recente, che darà l'opportunità di partecipazione ai giovani sia nell'ambito lavorativo ma anche di volontariato, di solidarietà. Il target di riferimento è quello dai 18 ai 30 anni, e di essere parte attiva in progetti in tutti i paesi chiaramente d'Europa, e che riguardano anche e soprattutto iniziative che coinvolgono zone terremotate, quindi essere parte attiva di una società più solidale, inclusiva, che è quello un po' l'obiettivo del Corpo Europeo di Solidarietà. E se posso, gli italiani che intanto si sono iscritti alla piattaforma del Corpo Europeo di Solidarietà sono già numerosi, quindi testimonianza del fatto che i giovani italiani hanno grande voglia di partecipare, quindi di essere parte attiva, e sfruttano le occasioni che poi l'Europa offre, perché poi sono la prima vera e propria generazione europea, quindi in realtà sono i primi testimoni di quelle che sono le opportunità dell'Europa, e il Corpo Europeo di Solidarietà rappresenta proprio una nuova opportunità per loro. Siamo ancora all'Aquila, al Festival della Partecipazione, con questa puntata speciale dell'Altra Europa. L'Altra Europa. Europa, ognuno la sua parte, questa puntata speciale dell'Altra Europa qui dal Festival della Partecipazione. Evelina, è davvero così difficile raccontare l'Europa? Come ci state provando? Non è facile, perché diciamo che l'Europa si racconta troppo spesso attraverso appunto le emergenze che vediamo, troppo spesso attirano i fatti di cronaca molto di più del, se vogliamo dire, informazione di servizio, perché poi alla fine è quella che dovrebbe essere facilmente comunicabile, ma non sempre lo è. In più si aggiunge anche una cosa, che in realtà l'Europa è molto poco capita, cioè si capisce poco come funziona, si capisce poco che competenze ha, che può sembrare un tecnicismo, ma poi alla fine alcune cose non passano. Quindi, per esempio, anche parlando di partecipazione, il fatto che le persone, dai giovani ai meno giovani, non capiscono in realtà come funziona, e quindi per esempio alle elezioni dell'Europarlamento man mano ogni anno ci sono meno persone che vanno a votare, questo fa capire che effettivamente lo spirito europeo si capisce poco, perché si capisce poco che opportunità e che utilità ha l'Europa. Penso che la generazione che ha iniziato l'Europa, quindi che è stata spinta dalla volontà e paura della guerra, non c'è più, e per fortuna nessuno di noi se lo ricorda più. Adesso l'Europa deve un po', come dire, a volte ha difficoltà a spiegare l'utilità, proprio perché si risaltano i lati negativi, si parla delle cose negative, quelle positive che ci sono tante, delle quali non si parla. Quindi il web vi sta aiutando o è un ostacolo in tutto questo? Ma penso che, come tutti gli strumenti, dipende in quale momento, dipende in quale ambito. Noi stiamo cercando di sfruttarlo al meglio, ovviamente ci sono tutta una serie di difficoltà anche linguistiche, perché per esempio ricordiamoci che io, rappresentando la Commissione Europea, comunica in 24 lingue, per questo la rappresentanza che sta qui ha il compito di comunicare con gli italiani in italiano, che non è una cosa banale. Quello che stiamo cercando di fare è, per esempio, ci siamo lanciati nel mondo dei social, che è una grande scommessa, e anche lì il bilancio è misto, dipende, perché è questo strumento che da un lato permette di essere vicini al cittadino, dall'altro lato ha i suoi limiti, che molto spesso, anche troppo spesso, diventa un'arena di, diciamo, battibecchi senza insomma. Però cerchiamo di comunicare le opportunità anche noi, però ovviamente per poterlo comunicare dobbiamo avere un minimo di seguito, e qui il cerchio penso si chiuda, quindi abbiamo tanto bisogno di questo tipo di giornalismo. Siamo partiti dai fax, siamo arrivati ai social. Maurizio, torno da te. Non ricordo che hai fatto l'Erasmus 30 anni fa. In verità, Tu poi in questi 30 anni l'Europa non l'hai mai abbandonata, sei diventato ambasciatore Erasmus, ma poi nella tua quotidianità, insomma, l'Europa è sempre stata al centro, no? Cioè, ogni volta che uno ti telefona sei in una nazione diversa, cioè sei tu la vera Unione Europea. Cosa hai visto cambiare e invece cosa non è cambiato in questi 30 anni? Non è cambiato il grande messaggio a partire dal manifesto di Ventotene. Le persone hanno voglia di stare insieme, hanno voglia di condividere. Ora vi sembrerà strano, tu citavi correttamente, siamo partiti da un fax, da un Free Movers e arriviamo al corpo di solidarietà europea. Io vorrei dirvi una cosa di cui sono io personalmente fortemente convinto, probabilmente, non so quanto popolare quello che sto per dire, io sono convinto che l'Europa dei muri, delle barriere, degli egoismi, è in una fase di declino totale. L'Europa che ci aspetta è l'Europa degli Ale, è l'Europa dei tanti giovani che in questi anni hanno iniziato a costruire qualcosa di più importante. Qualcuno ha parlato di generazione Erasmus. Sì, se voi pensate che io ho iniziato 30 anni fa, ebbene, ora la mia generazione comincia a ricoprire incarichi importanti nei diversi ruoli delle società. I nostri giovani parleranno sempre più di Europa. Noi avremo sempre meno egoismi. Io non sono preoccupato, non sono spaventato. Pensate solo per un attimo a quante opportunità i giovani in Europa oggi hanno che non avevo io 30 anni fa. E poi cosa è cambiato? È cambiata l'Europa, e non vi sembri strano, della solidarietà. Guardate, io non so se la cancelliera Merkel ha fatto l'Erasmus. Io non so quanti capi di governo hanno fatto l'Erasmus. Qualcuno ha detto siamo un condominio. E c'è un'Europa e poi ci sono gli Stati. Io credo che si sta avvicinando l'Europa della comunità. Noi abbiamo bisogno di meno Stato e di più Europa. A cominciare magari dal guardare all'Europa e sceglierci il nostro commissario europeo. Quello è un bel esercizio di democrazia che ci fa riscoprire il bisogno di sentirsi cittadini di una comunità. E quindi l'Europa ci prospetta un bellissimo futuro. Io sono straordinariamente ottimista, soprattutto perché ci sono loro. Grazie Maurizio Oliviero. Sono laboratori unici al mondo, se ne sente spesso parlare, di fatto poi pochi sanno bene cosa sono. Sto parlando dei laboratori nazionali del Gran Sasso, una eccellenza italiana. Diamo il benvenuto a Carlo Bucci, primo ricercatore dei laboratori stessi. Ciao Carlo. Grazie, ciao. Allora, so che non siamo addetti ai lavori, quindi il tuo compito sarà arduo. Cosa combinate là dentro? Beh, innanzitutto mi piace ricollegarmi alle parole dette precedentemente per citare il fatto che i laboratori del Gran Sasso, ma in generale i laboratori in cui si pratica ricerca di base al giorno d'oggi, come il CERN, ma anche altri laboratori, sono naturalmente un coacervo di varie nazionalità che si trovano a lavorare insieme. E questo diventa naturalmente un'occasione per l'integrazione, l'arricchimento culturale, il confronto, anche di diversi approcci lavorativi, non solo di integrazione culturale, che è un arricchimento per tutti. Detto questo, nei laboratori si pratica ricerca di fisica di base, in cui noi cerchiamo, per quanto sembri assurdo, di studiare il funzionamento delle stelle, dell'universo in generale, stando sottoterra, perché possiamo in questo modo riuscire a schermarci da tutta una serie di fenomeni che sulla superficie terrestre ci, diciamo, ostacolerebbero, e riusciamo a studiare particelle che provengono dalle stelle o fenomeni rari in maniera più chiara. E quanta Europa c'è? Adesso tu ci hai già detto che appunto per voi scienziati il concetto di confine è appunto un concetto legato alla fisica, legato alla matematica, non alla geografia e alla politica, però quanta Europa c'è nel lavoro che fate? Tanta. I progetti che sono presenti ai laboratori del Gran Sasso sono tutti collaborazioni internazionali in cui ci sono tanti italiani, ma anche tanti tedeschi, tanti francesi, tanti spagnoli, anche tanti americani, indiani, per andare oltre l'Europa. E sono progetti nei quali appunto la collaborazione internazionale è necessaria, perché la sfida tecnologica e scientifica da affrontare è talmente al limite che necessita il contributo da parte di tanti ricercatori e tante università che devono spingere al limite le loro conoscenze e le loro potenzialità. Quindi è, diciamo, un must, come si dice. Tu anche hai lavorato all'estero? Sì, ho avuto l'opportunità di lavorare in Germania per 2 anni dopo la laurea a Monaco, al Max Planck Institute di Monaco, e devo dire ancora molto di quello che ho imparato sull'approccio alla scienza, al lavoro, lo devo a quell'esperienza lì, che mi ha permesso di vedere un altro modo di affrontare i problemi, un altro modo di vivere, un altro modo di lavorare, e che mi ha arricchito moltissimo, non solo dal punto di vista professionale. Un'ultima domanda, che sarà quella complicata, lo so, e in questo momento tu sei ricercatore, cosa stai cercando? Allora, in generale, io cerco una cosa che si chiama decadimento doppio beta senza neutrini, che è molto complicato da dire, ma il senso, cerco di spiegare qual è il senso, noi cerchiamo di capire se i neutrini, che sono particelle particolarmente elusive, sono particelle che sono descritte da un'equazione di Majorana, il famoso fisico italiano scomparso tanti anni fa, o di Dirac, che è un altro fisico eminente. E questa differenza è fondamentale per spiegare il perché c'è una cosa che noi osserviamo nell'universo, il fatto che l'universo è fatto di materia. Noi tutto, dovunque vediamo materia, ma noi sappiamo che non c'è nessuna ragione per la quale non ci debba essere un'uguale quantità di antimateria. Però noi non la vediamo abbondante come dovrebbe essere, e questa differenza enorme potrebbe essere spiegata dalle caratteristiche dei neutrini e quindi da questo diciamo, particolare tipo di decadimento che cerchiamo. Poi ci sono altri esperimenti, altrettanto pittoreschi. Pittoresco mi sembra l'aggettivo giusto. E qui la domanda spontanea è: quindi l'Europa è più materia o antimateria in questo momento? E probabilmente dipende dal luogo in cui uno va a vedere. Secondo me, appunto, nei laboratori di fisica di base, ma anche di altre discipline, è molta materia. In altre sedi non tanto, direi. Infatti il processo di andare verso un'Europa più condivisa, che veniva menzionato più volte prima, è ancora... Anch'io sono abbastanza ottimista, ma penso che i tempi non siano così immediati. Grazie a Carlo Brucci. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con Europa, a ognuno la sua parte. L'altra Europa. L'altra Europa, oggi puntata speciale dal Festival della Partecipazione, e stiamo parlando appunto di Europa, a ognuno la sua parte. Continuiamo a raccontare l'Europa, lo facciamo, come ci è stato suggerito anche un attimo fa, andando oltre l'Europa. Lo faccio con la professoressa Anna Tozzi, che ha già avuto ospite all'Altra Europa, prorettrice con delega agli affari internazionali dell'Università dell'Aquila. Salve professoressa. Buonasera. Che cos'è il progetto ASSUR? Ok, ASSUR nasce tra i primi progetti, tra i primi programmi che l'Europa rivolge fuori l'Europa. E, guardando il bando e il programma, mi accorsi nel momento cruciale che iniziava la guerra in Siria, che per la Siria l'Europa aveva messo a disposizione solo 3 milioni di euro per 2 progetti di Erasmus Mundus Action 2. Mi è sembrata una cosa strana, però ho voluto provare. Chi conosce questo programma sa che è estremamente competitivo, c'è un tasso di approvazione dei progetti che è 2-3%, e abbiamo fatto domanda con 2 progetti, uno sull'America Latina, uno sulla Siria, ma tenevo in modo particolare alla Siria. Le ho anche dato il titolo in modo che l'acronimo ricordasse la gloriosa storia della Siria, Assur, l'antica città, divinità, anche la parte di nome che i re mettevano, i re dei Assurbanipal, no? Mi sembrava doveroso ricordare la storia, perché la guerra distrugge tutto e l'abbiamo visto purtroppo anche dopo. Questo progetto è stato approvato, prevedeva la mobilità di 56 studenti. Io volevo intanto farli venire in Europa per dare una possibilità a questi ragazzi di prendere un titolo. E poi le cose sono molto aggravate, cioè dal momento dell'application all'approvazione del progetto, tutto quello che io pensavo di negativo è stato peggio, molto peggio rispetto a quello che pensavo. E ho continuato su questa strada, quindi anche al credit mobility ho aggiunto la Siria. Quindi adesso abbiamo sia per l'Assur, quindi Erasmus Mundus Action 2, sia per credit mobility, quindi abbiamo fatto un bel gruppetto di ragazzi e ragazze, alcuni hanno già imparato l'italiano, quindi... Tra l'altro nel pubblico ci sono un po' di ragazze e ragazzi che hanno fatto... Come ti chiami? Amel Arrish. E da quant'è che sei qua, quindi qualche mese? No, da settembre 2015. Per studiare? Per studiare magistrale in telecomunicazione. Com'è stata? Come esperienza? E all'inizio tutto era strano, ma poi piano piano mi sono abituata a vivere qua e i professoressi nell'ufficio internazionale ci hanno aiutato molto, e specialmente la professoressa Natozzi è stata molto gentile con noi, e ogni problema, ogni cosa che abbiamo avuto ci solved. Grazie, un applauso per... Ci avviamo verso la conclusione. Evelina, quali sono le prossime sfide che ci e che vi aspettano come Europa? No, penso che se parliamo della partecipazione, sicuramente la sfida più grande per tutti noi europei, chi si sente europeo e chi ancora per l'Europa si emoziona come me. E chi ci crede, perché io, vabbè, se mi permetto di dire che io l'Europa la vivo un po' diversamente perché sono andata fuori dall'Europa, quindi ho un vantaggio di vedere anche tutto, ancora tutti questi, tutta quella bellezza che a volte qui si vede poco. Ma penso che la più grande sfida è quella di farci emozionare ancora per l'Europa. Vedere solo le cose brutte e non cercare quelle belle non porta mai niente di buono, e ancora meno in Europa. Penso che sottolineare quello che ci unisce anziché quello che, insomma, che ci divide, è vivere la comunità, quindi che sia condominio lo rimarrà probabilmente, ma creare anche una comunità all'interno di quel condominio. E quello le istituzioni lo fanno, ma senza la partecipazione delle persone non ce la faremo mai. Quindi noi cercheremo, io parlo adesso un po' istituzionalmente, cercheremo di mettere il più possibile cose belle delle opportunità che ci sono, investire nella ricerca, nel digitale, nello sviluppo, in tanti, perché l'Europa ha una grande sfida anche a livello mondiale, che a volte ci dimentichiamo litigando fra di noi, che in realtà c'è tutta una grande dimensione e tanti ambiti sui quali noi non abbiamo l'impatto, ma dall'altro lato abbiamo bisogno delle persone che, uno, vogliano partecipare, anche se criticare va benissimo, ma criticare con la conoscenza di causa, quindi andare a sapere che cosa si critica e andare ad abbaiare sotto l'albero giusto, se posso dire, con i nostri amici britannici. Grazie Evelina. Silvia, è un compleanno anche per voi quest'anno, no? Sì. Il 2017. Sì, sì, l'agenzia compie 10 anni, quindi insomma rispetto ai 30 di Erasmus siamo ancora giovanissimi, però è proprio un compleanno che insomma festeggeremo alla grande verso fine anno con un grande evento dove renderemo poi omaggio a questi 30 anni di Erasmus anche chiaramente, perché se 30 anni fa era... diciamo l'occasione che ha dato l'Europa, ora l'Erasmus è l'occasione per ricostruire quel sentimento europeo. E ti dico, a testimonianza sui tanti ragazzi che hanno fatto il volontariato europeo in questi anni, abbiamo fatto una ricerca lo scorso anno in occasione dei 20 anni del servizio volontariato europeo, insomma nessuno lo sa, ma anche lui è un giovanotto che ha spento 20 candeline, il 70% di questi ragazzi si sente maggiormente europeo dopo aver fatto un'esperienza del genere, quindi è un dato significativo da cui anche noi insomma vogliamo costruire un percorso futuro, anche grazie ai nuovi strumenti come Corpo Europeo di Solidarietà. Quindi ci teniamo molto a festeggiare questo compleanno grazie ai ragazzi che vivono in Europa e che sono il cuore pulsante poi dell'Europa. Grazie Silvia. Maurizio, chiudo con te. Abbiamo sentito che le ragazze e i ragazzi Erasmus stanno comunque preparando le valigie per rientrare a casa in queste settimane, no? Finite le sessioni d'esame, c'è l'estate. Cosa mettere in queste valigie? Si torna a casa e cosa bisogna portare? Il biglietto per ritornare, ma non da dove si è partiti, ma dove si è fatta l'esperienza Erasmus. Ci sono due impegni, ecco, che credo tutti dovremmo assumere. Ogni volta noi ci rivolgiamo alle istituzioni, come se le istituzioni fossero un soggetto terzo, come se fossero qualcosa al di fuori di noi. Le istituzioni sono il frutto di ogni singola persona. Dicevano gli antichi, se tu tieni il portone di casa tua pulito, tutta la tua città sarà pulita. E allora se tu vuoi costruire un'Europa migliore e inizi tu individualmente, tutta l'Europa sarà migliore. Ma per fare questo abbiamo bisogno anche di una buona comunicazione. Cioè che qualcuno ci racconti la vera storia. E magari tutti insieme faremo quel passo in più di cui abbiamo bisogno, e cioè di costruire l'Europa politica. Noi oggi abbiamo bisogno, finalmente, della Costituzione europea. Quindi in bocca al lupo a tutti e buona Europa a tutti. Un applauso ai nostri ospiti. Si chiude qua questo speciale dell'Altra Europa dal Festival della Partecipazione, qua dall'Aquila, e chiudiamo proprio con una canzone dedicata all'Aquila. Anche in una città triste corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente all'altro per un attimo e poi scompare. L'Aquila, città infelice, contiene una città felice che a volte nemmeno sa che esiste, ma che continua vivere esiste. L'altra Europa.